Eccoci qua in lieve ritardo, ma stiamo iniziando finalmente alle 21:17 in una Roma impazzita dal traffico e dalle disfunzioni dei nostri mezzi pubblici che qualcuno vorrebbe addirittura privatizzare. Fatto sta che 21:17 iniziamo orora. 0649 1750 il contatto telefonico, www.ondarossa.info il sito internet utile anche per ascoltarci via streaming, uno streaming già abbastanza frequentato. Infatti andiamo a salutare Maya dall'Argentina, Raffaele Pazzella da Napoli, Like and Wake qui da Roma, Alessandra qui da Roma, Alessandro anche lui della Grazia Obliqua qui da Roma. Sempre qui da Roma, Alessio. Intorno alle 22:30 ci sarà 25 o'clock. E quindi noi iniziamo immediatamente con andare anche questa sera a setacciare questa compilation che fa il punto della situazione del Nord Europa dal punto di vista della sperimentazione sonora. Si chiama Northern Lights, le luci del nord, The Scandinavian Experimental System Survey, una compilation stampata proprio da Raffaele Pezzella, testé nominato, un anno fa. E mette in luce una Scandinavia molto sotterranea e nascosta, artisti per lo più sconosciuti, almeno alle mie orecchie, come questo Christian Vastergaard, del quale ci ascoltiamo Out of the Maze. Christian Vestergaard, questo artista di origine danese ma vivente in Norvegia, come ci precisa Raffaele Pezzella, del quale è uscito anche un album recentemente, sempre attraverso la Nespless Sounds Group, ossia Grey. Questa ambient dai toni bucolici e malinconici. Out of the Maze, questa seconda traccia estratta appunto da Northern Lights, le luci del nord. Rimaniamo sempre in Scandinavia, ma qui i toni si fanno più cupi e minacciosi. E il tutto è estratto da questo split tra Atrium Carceri e Eldar. Eldar, quest'ultimo, un progetto spagnolo. Tutto ciò è estratto da Sacrosanct, un lavoro del 2012 che usciva per l'etichetta russa, questa Infinite Dog Productions. Questa traccia si chiama The Vault. Un vecchio lavoro del 2012, dunque, per quanto riguarda Atrium Carceri e Eldar. Atrium Carceri, lo ricordiamo, era un progetto reduce dalla vecchia avventura della Cold Meat Industry. Uno, diciamo, dei pochi sopravvissuti a quell'ondata. E diciamo la parte ambient della Cold Meat Industry era particolarmente sviluppata e seguiva la scia di Rise on Death di Peter Anderson. Interessanti pure gli Eldar, che hanno stampato come Elders soltanto circa 5 lavori, se non sbaglio. E alle 21.38 lasciamo dunque questo sacrosante e arriviamo qui in Italia. Andiamo a conoscere ancora meglio Le Vergini Folli, questo ultimo lavoro dei Camerata Mediolanense, progetto milanese. Un album che tratta delle vicissitudini, le persecuzioni di donne del passato, attraverso anche la poesia di poeti, per esempio Francesco Petrarca ed altri, sfruttati come testi da questi musicisti milanesi. Oggi ci ascoltiamo Notte di Novelli Sogni, Mi Vuoi e Notte Ancora. Thank you. Salutiamo il buon Banana. Niente da vendere, lo salutiamo e siamo contenti che abbia risolto quel suo piccolo problemino casalingo. Ripiglia la tua croce, mi si il grandissimo pianismo notturno di Elena Previdi, di Camerata Mediolanense, che ricordo prende spunto dalle vecchie camerate fiorentine, luoghi fisici dove i musicisti e i poeti si confrontavano e confrontavano soprattutto i loro prodotti artistici. E questo progetto milanese dunque si ispira a quel concetto culturale del Medioevo. Le vergini folli, che parla di donne tra virgolette maledette, tutto il mondo abbraccio. E queste tre canzoni prendono spunto, o meglio, hanno i testi di Cristina Trivulzio Archinto e le sue frequentazioni con Silvio Pellico e Vittoria Aganor Pomfili. In altre circostanze c'è la penna di Francesco Petrarca. Le vergini folli, doppio lavoro che sentiremo ancora a lungo su queste frequenze, in questo spazio radiofonico. Neoclassicismo, ma anche un approccio, se vogliamo, neofolk, che accomuna in parte questi nomonclast alla camerata medionalense. I nomonclast sono di origine statunitense e questo Gather Together usciva però per l'Old Europa Café, italianissima label, storica label italiana. Questa entra le Senizas e poi l'ultima traccia da nome Fly. Stella mente. Teach me to fly high above the sky, so that when our life dies I might close my eyes. Teach me to lie so that I might die, believing in my heart that always won't part. Träume, das Frühlingsversprechen.